Il gastronauta di Davide Paolini. Cosa abbiamo di buono questa sera? Cosa c'è di buono? Oh. Polpette di Bavaria, cuore di patata, farina, aromi. Peccato tu non puoi mangiare. No. Quattro tipi di carne, prosciutto, formaggio, uova. Tenera. Ascoltato? Abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando in sottofondo questo pezzo di Fantozzi contro tutti, dove ci sono una montagna di polpette di Bavaria e lui è lì per fare la dieta, e chi si ricorda questo film sicuramente starà ridendo. E anch'io oggi mi sono fatto portare un gran vassoio di polpette qui davanti durante la trasmissione, perché ho con me un cuoco, Antonio Consonni, del Cenacolo dei Pittori di Villa Raverio, il quale mi sono fatto preparare proprio ieri sera queste polpettine. Poi magari ne parleremo anche con lui di questo. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Bene, appunto, avete capito, il tema sono le polpette. A volte tornano, ma io credo che le polpette invece siano sempre rimaste. Passano le tendenze, ma sicuramente le polpette restano sempre sui piatti e anche sulla memoria delle persone, specialmente quelle al pomodoro, quelle gustose al pomodoro, che se ne mangia una poi tirano tutte le altre, insomma, come le ciliegie. E allora io voglio cominciare questo giro, appunto, polpette d'Italia, questo giro d'Italia della polpetta, da un macellaio molto noto, che tra l'altro ha anche un locale solo ciccia, dove spesso, anzi credo quasi sempre, si mangiano le polpette. Io voglio chiedere a Dario Cecchini. Buongiorno Dario. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti, buon sabato. Dario, io voglio chiedere a te, tu devi dare un consiglio ai nostri radioascoltatori, qual è il taglio di carne migliore per fare delle straordinarie polpette? Allora Davide, il taglio di carne migliore per fare delle straordinarie polpette sono le spuntature del manzo. Cioè, a giudizio mio, noi bisogna incominciare a sfasare il mito del filetto, delle bistecche, dei tagli nobili, cioè a pensare che un animale ha una forma di piramide, come hanno messo per la dieta mediterranea, cioè il filetto in cima al numero uno, le bistecche al numero due. Tutti i tagli sono buoni, è un cerchio, una forma circolare, tutti i tagli sono buoni, è solamente che negli ultimi anni, dopo il miracolo economico degli anni 60, tutti volevano mangiare cose nobili, fra virgolette. Le polpette sono la cosa più nobile del mondo, al punto che alla fine del 500, per il battesimo di Cosimo e Leonora de' Medici, presentarono un vitella di latte battuta a polpettone e nacque il nome polpettone, cioè era l'eccellenza per i nobili, quella era la nobiltà. E Pellegrino Artusi mettevi il brodo come prima ricetta. Ora ci sa queste manie, passerà. Per fortuna te, tu ci sei e tu fai una trasmissione sulle polpette. I tagli sono la spuntatura della pancia, le punte della spalla, il muscolo, soprattutto il muscolo del quarto anteriore, sono i cosiddetti tagli poveri, fra virgolette, che macinati hanno un po' di si impazzano meglio, perché sono fibre più forti, ma soprattutto sono muscoli che lavorano e quindi sono più saporiti. Bene, grazie a Dario Cecchini di questa lezione di polpetterie. Numero verde 800 24 00 24, messaggi sms, ne sono già arrivati tanti, 349 238 6666. Ma ora andiamo a Milano, perché a Milano c'è un piatto tradizionale molto importante, sono i Mondeghili. E allora io chiedo a Max Masuelli, che è proprietario della trattoria Masuelli San Marco di Milano, notissima appunto perché ogni giorno, mi sembra un giorno a settimana, appunto, presenta questi Mondeghili. È vero Massimiliano? Sì, buongiorno Davide, buongiorno a tutti, felice sabato. Sì Davide, è vero, un giorno alla settimana diciamo che facciamo questo piatto tra virgolette povero, ma di grande gusto. Massimiliano, voi che taglio di carne usate? Noi mettiamo dentro sì del manzo, però il manzo bollito, perché la tradizione vuole che i mondeghili vengano fatti con chiamiamoli scarti delle cose che sono rimaste a casa, un pezzo di bollito piuttosto che un pezzettino d'arrosto, del cotechino, il fondo di un buon salame, e tutte queste cose qua vengono tritate finemente per poi essere fatte con amalgamate con uova, delle verdure per renderle più gustose e tutto quanto, e vengono poi o fritte, fatte da delle rondelle di 5-6 centimetri, oppure ancora meglio, ma nella stagione invernale, quando c'è la verza buona, si scottano delle foglie di verza abbastanza chiare per poi avvolgere il tutto e cuocerle in forno a 120-150 gradi, ecco, per una ventina di minuti. Bene. Questo qui è servite con, sempre nel periodo appunto freddo, con della polenta, o se no quando c'è primavera, estate, sperando che scoppi questo caldone che hanno detto, con dell'insalatina fresca di stagione, ecco. Grazie a Max Masuelli, appunto, i Mondeghili milanesi. Ma ora chiedo appunto a Antonio Consoni. Tu, Antonio, queste polpette che mi hai portato qua, con che taglio sono fatte? Beh, io le faccio con il taglio, con la punta di vitello o di manzo, e con un po' di lonza di maiale oppure di coppa di maiale, dove c'è questo grassino che, cotto poi, quando viene impastato, lega quello che è la polpetta, diciamo. Poi ci aggiungiamo del prezzemolo, un pochissimo aglio, e io come verdura metto il sedano Marconi, che è un sedano senza fili, che viene tritato molto sottile, aggiunto alle polpette, poi fritte in olio, oppure anche chi non vuole la frittura le cuocio nel forno a 200 gradi finché sì. Bene, grazie. Sentiamo Leonardo da Foggia. Buongiorno Leonardo. Buongiorno, io sono un amante delle polpette. Noi le facciamo in un modo un po' più speciale, nel senso che prendiamo la carne di agnello disossata, delle costolette di agnello disossate. Bene. E le facciamo bollire e ci mettiamo qualsiasi tipo di ombo di rucola. Già cotta. Ho capito. Leonardo, bene, è chiuso perché non capisco, lei fa molti... Con asparagi tritati. Bene, grazie a Leonardo da Foggia. Il gastronauta. Stanno arrivando sms con ovviamente segnalazioni, mi vengono segnalate le polpette della trattoria Sorelle Picchi di Parma, e poi mi viene segnalato anche, dice, polpette non insanguinate, speriamo poco, caro amico, che ci dà il buon primo maggio Paolo. Bene, continuiamo, io ricordo il numero verde 800 24 00 24, dateci appunto, raccontateci le vostre polpette, quali sono i posti dove avete mangiato le polpette migliori. Io vorrei ricordare le polpette della latteria di San Marco di Arturo, veramente sono polpette straordinarie. Lui dice che le fa con il taglio del reale, quindi ecco, c'è anche questa differenza. Sentiamo Francesca da Prato, una radio ascoltatrice. Buongiorno Francesca. Sì, buongiorno Davide. Io volevo parlare delle polpette di sedano alla pratese. Prego. Che sono, vabbè, una versione più casalinga dei sedani ripieni alla pratese, fatte con semplicemente sedano sbollentato e tritato, macinato, ma vanno molto bene anche avanzi di arista, di roast beef, uovo, un po' di pan grattato, legate tutte insieme e poi fatte delle polpette lunghe, fritte e servite con del sugo di pomodoro. Bene, ricordiamo che larga parte delle polpette sono fatte con piatti di recupero, vorrei ricordare il bollito per esempio, sul bollito si possono fare delle ottime polpette. Poi vorrei ricordare che ci sono anche le polpette di pesce, ci sono le polpette di stoccafisso, ci sono le polpette di verdura, quindi hai tantissime possibilità, specialmente sulle verdure sono veramente fantastiche le polpette di verdura. Ma ora andiamo a Napoli, che è una città molto nota per il recupero e sicuramente di piatti recuperati, e andiamo da, diciamo, il teorico e anche lo scrittore ormai, ma anche il pratico della cucina napoletana. Andiamo dall'amico Antonio Tubelli. Buongiorno Antonio. Buongiorno Davide, come stai? stai? Bene, timpani e tempura. Timpani e tempura, sì, sì, dimmi. Volevo dirti, ci racconti una polpetta alla napoletana? Bene, guarda, la polpetta alla napoletana diventa una squisitezza unica se nell'impasto di carne di manzo e carne di maiale cruda noi mettiamo un po' di quelle carni con le quali facciamo o il ragù o la genovese. Diventa qualcosa di sublime. Poi se a questo aggiungiamo l'ovetta passa e i pinoli tostati, siamo all'apice di una polpetta fritta che poi va ripassata nel sugo di pomodoro e va mangiata. Quindi immaginate che cosa è. Certo che le polpette, cioè specialmente quelle fritte, sono il ben di Dio. Però sì, ora, sono fritte, oh, poi mi sì. Ora lancio una grande provocazione, perché c'è Marco da Bergamo che dice polpette svedesi dell'IKEA. Ecco, vorrei sapere, signori, chi le ha mangiate, come le avete trovate? Questa sì che è una bella provocazione. Grazie a Marco di Bergamo. Voglio chiedere a Marco di Bergamo, ma intervieni, raccontaci se le hai mangiate, come le hai trovate. Sentiamo Amedeo da Roma, un altro radioascoltatore. Buongiorno Amedeo. Sì, buongiorno Davide, intanto complimenti per la trasmissione. Dunque, volevo dire che un modo con cui a me piace molto mangiare le polpette è creare un sapore agrodolce, cioè inserendo all'interno della polpetta i pinoli e l'uva passa, che è una cosa davvero buona, merita davvero. Ma questa è una specialità di casa tua o le hai mangiate da qualche parte? Guarda, mia madre le fa spessissimo così, quindi è una cosa che fa mia madre, però diciamo viene davvero molto buono, perché diciamo il sapore dolce un pochino dell'uvetta spegne il forte della carne, quindi diciamo il sapore diciamo, viene un mix davvero buono. Bene, grazie a Amedeo da Roma. Visto che è un radioascoltatore da Roma, noi andiamo a Roma e andiamo da Cesare al Casaletto, con noi Leonardo Vignoli. Buongiorno Vignoli. Sì, buongiorno signor Paolini, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io ho parlato prima di polpette, diciamo recupero di bollito, so che la sua specialità è questa, è vero? Sì, sì, sì, è vero, perché noi lavoriamo tantissima carne di manzo. E ho iniziato a fare le polpette di bollito dal recupero dei tagli del lombo di manzo, quindi per chiaramente non scartarli e non buttarli, ho iniziato a fare diciamo questo lesso e diciamo con il ricavato del bollito del lesso ci facevo delle polpette. Ho iniziato 3 anni fa e ho visto che hanno avuto un riscontro diciamo molto, molto positivo e ho continuato, adesso le faccio anche con la punta di petto, con i muscoli, insomma con tutte le altre parti del manzo che sono adatte, e devo dire che dopo che ho fatto il bollito faccio una polpetta, la pano e la friggo e hanno molto successo, piacciono molto. Bene, io la ringrazio, grazie Leonardo Vignoli da Cesare al Casaletto di Roma. Nessuno mi chiama con le polpette di verdura o le polpette di pesce, su numero verde 800 24 00 24, anche queste sono buonissime. Sentiamo Simon, un radioascoltatore dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Simon. Buongiorno. Niente, io volevo segnalare polpette di carne di Sorana. C'è un che si chiama Contadino, è scritto, e li vende Valdagno, si chiama Lombardi Giuliano, sì? Che fanno i mercati biologico e non ha carne, come si dice, scarto, proprio Sorana, un carne particolare di vitello, è buonissimo, e lo fa crespelle, polpette, mentre aglio, prezzemolo. Senta Simon, lei è tedesco o austriaco? Io sono albanese. Albanese. No, perché sennò mi venivano in mente le polpette di Bavaria che abbiamo sentito prima da Fantozzi contro tutti del medico. Grazie Simon della sua testimonianza. Sentiamo Antonietta da Napoli. Buongiorno Antonietta. Buongiorno. Vorrei parlare delle polpette abruzzesi. Sono particolari perché sono fatte con pane raffermo e diversi tipi di formaggio, pecorino, parmigiano, e poi si friggono oppure al sugo e sono veramente stupende e si chiamano pallotte. Non so se lei le conosce, ne ha mai sentite parlare, no, di queste polpette? Come pallotte no, piovono polpette sì, ma piovono pallotte non l'avevo mai sentito, Antonietta. Benissimo, pallotte, abbiamo imparato anche le polpette abruzzesi. Ecco, qualcuno mi segnala le polpette di pesce dell'osteria Alla Vedova di Venezia, benissimo. Quindi bene, abbiamo anche una polpetta di pesce, di verdure, chi mangia solo verdure, si faccia vivo, mi racconti le proprie polpette. Sentiamo sentiamo Marta da Udine, ormai abbiamo tutte le regioni d'Italia, bellissimo questo spaccato. Buongiorno Marta. Buongiorno. Allora, visto che lei ha lanciato un richiamo sulle polpette di verdura, io faccio le polpette di melanciane. Perfetto, come sono? Niente, praticamente si passano in padella delle melanzane tritate a cubetti senza neanche farle dissalare con un goccino di olio e di un po' di aglio, poi praticamente si macina, anzi schiacciare con la forchetta, uovo, parmigiano, pangrattato, a chi piace un po' di peperoncino e poi un cubettino di Montasio, che è il nostro formaggio latteria, e poi si friggono. Grazie Marta, abbiamo anche dal Cilento addirittura qualcuno che ci scrive, appunto ci dà una ricetta, insomma tutta Italia, è vero, tutta Italia mangia polpette. Ma voglio chiedere ad Antonio, ma polpette di pesce, tu che sei un grande pescatore, fai polpette, sì, di pesce o no? Allora, dalle nostre parti c'è le famosissime polpette di Cavedano, che praticamente il Cavedano è considerato il maiale del lago. Queste polpette sono molto buone, si fanno con il Cavedano che viene bollito, c'è chi lo bollisce, chi lo fa da crudo, io preferisco farlo metà e metà, così si riesce a avere una consistenza molto più setosa. Si aggiunge prezzemolo, pane, aglio e poi si friggono nell'olio infarinandole, non panandole. Si possono servire con la salsa verde, col pomodoro, con una salsa di cipolle, con qualsiasi cosa. Bene, devo dire che c'è un altro SMS molto divertente che dice: beh, ricordiamolo che le polpette si possono mangiare con le mani. Sono d'accordo, caro radioascoltatore, è vero, le polpette è la cosa migliore, mangiarle con le mani. Quelle però col pomodoro, insomma, è magari un po' più difficile. Ma sentiamo Antonella da Parma, così andiamo anche in Emilia. Buongiorno Antonella. Sì, buongiorno Davide, volevo suggerire anche crocchette fatte con cereali e verdure, sono spettacolari, fatte in tempura, con olio di sesamo, splendide. Bene, sul discorso dell'olio c'è un radioascoltatore che è sempre presente, Luigi Carella, che dice che bisogna ricordare invece l'olio d'oliva extravergine, ma ognuno ha i propri oli. Evelina da Milano, un'altra radioascoltatrice, buongiorno Evelina. Buongiorno Davide, complimenti per la sua trasmissione, sempre interessantissima. Allora, io ho un figlio che si diletta in cucina, Edoardo, e mi ha fatto assaggiare le polpettine dell'IKEA. Ragazzi, ma sono una squisitezza. Bene, quindi io avevo fatto questo richiamo, ma come sono, Evelina, lei lo sa? Tanto sono piccoline, di carne, eh? Sì, certo. Sono di carne con dentro delle verdurine, ma sono invisibili, sono grandi come delle palline, più piccole delle palline di ping pong. Bene, quindi abbiamo lanciato così un parere positivo, sentiamo se ci sono altri pareri positivi. Avevo ricordato il Cilento, c'è Antonio da Sessa Cilento che ci dice: polpette con pane grattugiato e formaggio fresco con sugo di pomodoro era il cibo dei contadini d'un tempo durante i giorni di zappatura dei terreni, lo raccontava la mia nonna. Bene, abbiamo anche qualcosa così di antan, torniamo abbastanza indietro, e quindi ricordiamo che, appunto, ho detto prima, le tendenze passano ma le polpette restano. Numero verde 800 24 00 24. Massimo da Roma, buongiorno Massimo. Buongiorno a te, io volevo solo dare una segnalazione qua a Roma di un posto, a mio modo di vedere, degno di nota per le polpette al sugo, che è una trattoria dietro il Parlamento e appunto si chiama Da Gino al Parlamento. Le trovo da 30 anni le polpette più buone che io abbia mangiato qua a Roma, e è un'atmosfera stupenda perché è il posto frequentato anche dai politici dell'immediato dopoguerra e in particolare dal presidente Pertini, che era un frequentatore assiduo di questa trattoria del Cavalier Gino al Parlamento. Ma Pertini mangiava le polpette quindi? A dire del figlio, sì, del Cavalier Gino. Bene. E almeno dagli articoli di stampa che ci sono là, così si diceva, ma sicuramente sono delle ottime polpette in umido al pomodoro. Bene, devo dire che ho parlato di pesce e ho una bellissima segnalazione: polpette di neonata squisite al quadrifoglio di Favignana, quindi anche le neonate, benissimo, perché abbiamo il pesce. E poi anche abbiamo, sempre a proposito di neonate, bene, se andiamo a Viareggio sono le cee, e quindi mi segnalano, a Viareggio una volta si facevano le polpette con le cee, ora non si può più e si usano i bianchetti. Bene, è vero anche questo, devo dire, favolose, mi dice Daniela da Viareggio. È vero, è verissimo, perché le CE sono vietate e invece le neonate magari ancora sono ammesse. Oppure polpette del dolce brusco fatte con ripieno di tortelli di ricotta e fritte con aceto balsamico e zucchero, da Nonantola, Modena, Laura. Bene, sentiamo Marina da Cuneo. No, è caduta la linea. Bene, riprenderemo fra poco. Il gastronauta. Sono davvero stupefatto, credo di avere qualcosa come 50 sms in cui ognuno mi dà delle ricette appunto di polpette. La cosa divertente è che da Parma c'è un bombardamento, c'è chi mi parla che le polpette sono fatte con carne di cavallo e chi invece dice basta con le polpette di carne, passiamo alle polpette di cereali. Quindi bellissima questa di sfida tutta a Parma. Beh, ora voglio parlare di polpette con un amico che è un grandissimo chef e magari molti l'hanno scoperto con MasterChef, però in realtà chi lo conosce dai tempi del famoso ristorante Il Trigabolo di Argenta sa quanto è bravo. Ciao Bruno Barbieri. Ciao a te e a tutti i tuoi ascoltatori, buongiorno. Beh, io ho scoperto che tu hai scritto un libro, Polpette che passione. Esatto, ho scritto questo libro edito da Biblioteca Culinaria, è stata veramente una cosa molto divertente. Beh, intanto diciamo una cosa, che le polpette sono un po' la Cenerentola della cucina, sono state bistrattate, messe in tutte le maniere, ma nascono sicuramente dalla storia del riciclo, cioè le polpette una volta si facevano con la carne avanzata la domenica del bollito nelle grandi famiglie dove si mangiava il bollito dei grandi bolliti, e il giorno dopo venivano trasformate in polpette. Poi da lì è nata tutta la storia, cioè ne sono nate a centinaia, come hai detto tu, in tutte le maniere, e poi comunque è un piatto dove ci si può anche sbizzarrire. Senti Bruno, qual è la tua polpetta preferita? Quella di questo libro, cioè con la quale magari hai scritto con più passione? Beh, guarda, lì ce ne sono tante. A me piace l'idea delle polpette perché è veramente, al di là di tutto, un piatto creativo, perché comunque ti dà la possibilità di farle in qualsiasi maniera. Beh, una cosa che mi piace molto magari è abbinare per esempio il pesce con la carne. In che senso? Per esempio unire del pesce bianco con del pollo, per esempio, e fai una polpetta magari avvolta in una patata, avvolta nel pan cotto. Insomma, ci sono mille modi per poterla fare. Quella che mi piace di più nel libro, per esempio, è quella di verdure, patate, spinaci avvolte nei pistacchi, che un po' mi dava l'idea di un paese arabo, di un paese lontano da noi. Bene, grazie Bruno Barbieri, lo ripeto, polpette che passione, grazie e tanti auguri per la tua futura attività. Ho aperto un nuovo ristorante che si chiama Cotidia Londra e devo dire che sta andando molto bene, il vero Made in Italy, perché diciamoci la verità, il Made in Italy non è solo Prada, Gucci e tutte queste belle grandi firme, ma è anche il cibo italiano, è una vetrina per tanti piccoli produttori che hanno voglia di un nuovo mercato. Grazie, a presto, bene. Grazie, ciao a tutti quanti. Restiamo a Milano e andiamo dalla polpetteria Cicilla. Bene, questa polpetteria di Milano ha anche una particolarità molto interessante, è una cooperativa che l'ha aperta che si chiama Anni Versati, ma sentiamo da Sabina Bellione, che è la presidente della cooperativa, di spiegarci perché è particolare. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno Sabina, ci spiega perché questo locale e questa cooperativa è molto particolare. È molto particolare perché è una cooperativa sociale, quindi da noi lavorano anche persone disabili che hanno trovato con noi un posto di lavoro stabile. Ecco, perché una polpetteria avete aperto? L'idea è nata ad una cena mangiando le polpette di una fantastica zia di un nostro socio, e abbiamo pensato alla polpetta perché è un piatto veloce, buono, che piace a tutti, che piace ai bambini, e abbiamo deciso di reinventarlo un po', quindi non solo polpette di carne ma anche di altro tipo. Bene, allora polpetteria Cicilla a Milano, questo è l'indirizzo appunto dove si mangiano queste diverse polpette. Marina da Cuneo, una radioascoltatrice, buongiorno. Buongiorno Davide, buongiorno. Sì. Prego. Allora, io volevo parlare delle polpette fantastiche che si mangiano in Grecia, che io faccio anche in casa, quelle di merluzzo, Ma non è tanto il fatto della polpetta quanto il fatto della salsa che l'accompagna, la scordaglià. Noi qui nel nord, nel Piemonte, usiamo fare l'aioli, no? Quella salsa sì, con la maionese. Invece in Grecia è molto più leggera, è una salsa di patate con l'aglio e con l'olio, montata come una maionese, è buonissima. Bene, grazie. Altro tipo di polpetti che spedes, che sarebbero i koftà del Libano. Ecco, vede, lei mi ha dato un assist fantastico, perché è con noi Vittorio Castellani, ovvero sia Kumalé, che è un giramondo, un gastronomade, come si intende lui, come si definisce lui, e devo dire che chi ne sa più di lui di polpetti in giro per il mondo. Buongiorno Vittorio. Buongiorno Davide. Facciamo la panoramica veloce, Vittorio, del mondo della polpetta. Ma allora la polpetta trova nel Mediterraneo orientale il suo luogo elettivo. Esistono tantissime varianti con nomi assonanti, keftedes, keftagi, kefta, che in lingua araba definisce tutto ciò che è fatto con la carne tritata, che può avere anche la forma della polpetta, quindi con l'aggiunta di spezie, di altri ingredienti, che solitamente sono l'aglio e la cipolla. Quindi diciamo, la signora prima faceva riferimento alla tradizione greca, e queste possono poi essere stese sugli spiedini, cucinate alla griglia, piuttosto che cucinate con densi sughi aromatici. Allora qui poi ci spingiamo fino alla tradizione del nord dell'India, perché poi gli islamici con la loro dominazione hanno portato queste polpette in giro un po' ovunque, fino appunto alle periferie più estreme del loro impero, e anche alle porte del Mediterraneo, perché la denominazione stessa in Spagna albondigas, tutto ciò che in Spagna comincia con al e l'aggettivo saper il, ha origine araba. Quindi diciamo, oltre alle carni, che non sono solo quelle di manzo ma spesso sono anche quelle di montone, ma possono essere anche di pesce, la signora faceva riferimento prima a quelle di merluzzo, ottime, eccezionali quelle marocchine condite con cumino e con coriandolo, che sono le due spezie che solitamente denotano più le polpette a base di pesce, e se anche qui si sposano con sughi, vengono cucinate all'interno del tagin. Ecco, quindi da qui poi, voglio dire, gli europei hanno esportato in Sud America queste tradizioni, ma esistono anche altre tradizioni interessantissime di polpette, con un'eccezione un po' particolare, che vengono legate magari con amidi di riso, e allora diventano polpettine che vengono cucinate nel brodo, nelle zuppe, soprattutto in Thailandia, il Vietnam, nell'Asia insulare. Ecco. Sei veramente un mondo. Sei veramente un'enciclopedia vivente, rimani con noi ancora un po'. Sentiamo Roberto dalla provincia di Parma. Pronto, sì. Buongiorno. Un contributo rapidissimo sia per quanto riguarda l'aspetto vegetale, i cereali, e sia per quanto riguarda anche divagazioni sul tema polpetta. Allora, io sono a Parma in macchina, ma le mie origini sono venete, emiliane, pugliesi, quindi primo riferimento alla mamma, le classiche polpette all'uovo della mamma sono fatte con un impasto simile a quello della frittata, fritte poi messe nel sugo, sono una cosa stupenda. Secondo riferimento, le polpette al farro, che si mangiano, devo fare il nome, a Roma, da Armando al Pantheon. Bene, sono ci fermiamo qui, perché guardi, c'ho un sacco di radioascoltatori che vogliono intervenire. Grazie per queste due proposte. Massimiliano da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno Paolini, complimenti. Io volevo segnalare le polpette al persico del lago d'Idro, che di solito faccio per la mia famiglia. Le faccio con il pesce persico tagliato a cubettini, gli aggiungo delle mandorle bianche tritate, delle patate, e il tutto prima lo passo in un soffritto di carote grattugiate fini, così il bambino non le vede, un soffritto di poco aglio. Poi ci aggiungo qualche pistacchio, delle foglioline di finocchio, del timo, un po' di farina bianca, poi le amalgamo bene, le infarino e poi le frigo nell'olio di vinacciolo. Grazie della ricetta, Vittorio Castellani. Volevo chiederti qual è la polpetta più buona che ti ricordi di aver mangiato? Beh, guarda, il Dora Kebab sicuramente, che è una ricetta delle Northwestern Frontiers indiane, afghane, in qualche modo Punjabi, vengono tritate queste carni miste di di agnello soprattutto, con tante spezie, infilate sopra una spada, la cui elsa raccoglie un liquido infiammabile che le cucina, e vengono portate direttamente a tavola, infilzate su questa spada col fuoco sotto che le riscalda, che le cuoce, ma poi al di là della scenografia, poi il gusto è veramente impresso. Vorrei dire ancora due cose sulle polpette vegetali a cui faceva riferimento l'ascoltatore di prima, anche questo è molto importante, soprattutto a base di legumi. Allora dobbiamo citare i falafel medio orientali, ma anche poi gli acra africani e altre specialità che si mangiano in Brasile a base di fagiolo bianco. Poi ci sono le polpette del nord Europa, anche queste interessanti, che possiamo in qualche modo paragonare ai canederli, ai knödel, no? Che poi diventano non una polpetta ma un primo, vengono considerate. Bene, grazie Vittorio, ti consiglio di scrivere un libro sulle polpette nel mondo, perché sicuramente avresti successo. Il gastronauta. Ecco, ancora polpette. Io dico, interrompiamo le telefonate perché non ne passeremo più, ne abbiamo già tante, non so quanti sms. La polpetta veramente è una cosa incredibile, popolarissima. Ma io ho con noi ora Fabio Picchi, il cibereo di Firenze, noto perché nel menù ci sono sempre polpettoni e polpette. Però io voglio chiedere una cosa, Fabio. So che lui è talmente goloso fin da bambino delle polpette che mi deve raccontare una cosa successa appunto quando ancora era in tenera età. No, avevo già la macchina, ero diciottenne e in un pranzo di Natale fui spedito a prendere le polpette che aveva fatto la nonna, e poi sarei dovuto andare subito dopo a prendere mio padre che arrivava da Milano in treno per raggiungere i 40 familiari che ci aspettavano per il pranzo di Natale, e mia nonna imprudentemente mi affidò 130 polpettine che lei aveva fatto la mattina presto, e io ne mangiai 113, le altre le mangiò padre. I miei parenti non hanno mai avuto polpette in quel Natale. Ora non mi pensate è pazzo, però, cioè, come fa uno a mangiare? Cioè, erano molto piccole, assolutamente evanescenti, perché la nonna aveva questo trucco, le faceva classicamente interrompermi, se vuoi Davide, no, vai. Con il lesso avanzato e le patate, e poi ci metteva dentro un nonnientino di noce moscata, un nonnientino di aglio, un po' di scorza di limone grattugiata, e tutto andava però fatto riposare non meno di 24 ore in frigorifero, ma ci amalgamava dentro un non niente anche di besciamella ben fatta, vera, di buon parmigiano e di buon latte, e poi, ed ecco il segreto, nell'impasto, nella prima morbidezza dell'impasto, ci metteva dentro anche delle chiare sbattute a neve, lasciava riposare l'impasto in un frigorifero, e dopo garbatissimamente nell'incova della mano faceva queste polpettine che poi metteva in bocca e sparivano, e non fu colpa mia, perché Fabio ebbe un'ora di ritardo, capito? Fabio, ma queste polpettine, per quello che continui a metterle nel tuo ristorante, perché nel retrobottega sì, te le mangi tutti i giorni. Ma assolutamente sì, e guarda, quando vengono anche ospiti di riguardo, Udi, no, che è stato qui e continua a tornare, io l'ho corrotto a suon di polpette, capito? Ma quelle di carne, sì. Sì, ho fatto una. Sai che Gurial è un grandissimo mangiatore, ad altissimo livello, proprio la grande tradizione ebraica newyorkese, è una persona che mugola su un brodo con i passatelli, intendimi, è raffinato, su un carciofo al tegame perde il capo. Allora io gli ho fatto delle polpette, proprio quelle di carne, in quel caso noi le chiamiamo crocchette, dove la quota della patata diventa inferiore nell'impasto, ripassate poi dentro un forno, con aromi proprio orientali, si va dal chiodo di garofano al cumino, e lì, pur sapendo che lo stavo cercando di ucciderlo, lui mi ha guardato e mi ha detto faccia di me quel che vuole, e infatti poi ne ha mangiate anche lui sei, e in quel caso sono veramente un'enormità. Bene, grazie di questa testimonianza Fabio, come sempre, sei sempre brillantissimo e le tue polpette sono buonissime, lo posso testimoniare. Grazie a Fabio Picchi del Cibereo di Firenze. Bene, io prima di introdurre Alessandra De Leonardis, che è una scrittrice, ha scritto diversi libri, Morse d'amore, voglio leggere sul mio sito cosa ha scritto un certo chef Giovanni. Scrive: ho fatto anch'io le polpette, ma le sensuali polpette che Alessandra ha fatto nel mio ristorante sono state la manipolazione della più sexy polpetta della storia della cucina italiana. E Alessandra, ma tu come fai queste polpette? Con passione. Buongiorno Davide, buongiorno Gastonati. Beh, la passione, ci vuole anche qualche cos'altro, insomma, oltre alla passione. Oh, sì, certamente, ci vogliono tutti gli ingredienti migliori. Le mie polpette sono fatte con la carne, però io in privato le faccio con qualunque cosa. In realtà è il rito dell'impasto, la passione, il tempo che ci si prende, ecco, le mani che affondano, il rumore, ecco, è tutto questo. Ti fermo perché devo spiegare che Alessandra De Leonardis fa praticamente una performance con le polpette e fa fare anche magari a chi vuole partecipare con gli occhi bendati. Perché con gli occhi bendati, Alessandra? Perché la vista è il senso che noi utilizziamo di più in assoluto nella nostra vita quotidiana. Escludendola scopriamo il meraviglioso mondo degli altri sensi, che purtroppo per via della fretta e di tante cose ci sfugge. Quindi finalmente sentiamo l'odore di quello che stiamo toccando, di quello che abbiamo sotto, intorno, il rumore, questo cic ciac che fanno le mani, ma persino le foglie sminuzzate di prezzemolo e di mentuccia che io metto nelle polpette fanno un rumore quando cadono sull'impasto. Anche il parmigiano e il pecorino grattugiato fanno un rumore, ma noi ci sfuggono queste cose. Invece io cerco di aiutare come chi partecipa al mio laboratorio a percepire tutte queste cose. Bene, la fame è cresciuta, grazie Alessandra, la fame è cresciuta, ora a mezzogiorno tutti mangeranno polpette, ma sentiamo Marisa da Firenze, buongiorno Marisa. Sì, signor Paolini, le volevo segnalare le polpette col baccalà, lessato con degli odori, e besciamella, formaggio, uovo e poi infarinate. Io non l'ho trovata in nessun libro. Grazie Marisa, grazie Marisa. Sentiamo Elvira dalla provincia di Milano, buongiorno Elvira. Buongiorno, buona giornata a tutti. Volevo parlare delle mie due nonne. Una faceva i mondeghili rigorosamente con carne lessata avanzata e non doveva mai mancare il pezzo di salame, e l'altra faceva i cassensin, che non ho più sentito nominare da nessuno. Mi piacerebbe sapere se qualcuno... E cos'è questo cassensin? Erano fatti con gli avanzi di minestrone. Si faceva apposta più minestrone di verdura. Quando avanzava si aggiungeva della farina, l'uovo, un po' d'uvetta, si infarinavano e si friggevano. Erano una squisitezza dell'infanzia, ma più nessuno me ne ha parlato. Grazie Elvira, allora io voglio ricordare quella più straordinaria polpetta che ho mangiato, ed era proprio fatta con la pasta e fagioli, i resti della pasta e dei fagioli da Giusti a Modena, davvero strepitosa. Bene, ancora due radioascoltatori, 30 secondi, Edoardo da Treviso, buongiorno te, Edoardo. Buongiorno, volevo dire, sono di origine rumena, è come dire del pesce, dello sturione macinato con un po' di cipolla, un po' di aglio, un po' di limone, farinate e friggere sull'olio. È un piatto rumeno questo. Rumeno. Grazie Edoardo. Grazie Edoardo. Sentiamo Luca dalla provincia di Salerno, ultimo 30 secondi. Sì, allora, per Carnevale, polpette di pastenache, carote sarebbero, sì. Si fanno a San Valentino Torio, si fanno lessare le carote il giorno prima, poi con pane, uova, formaggio pecorino vengono fritte, mentre in Costiera Amalfitana, Cetara, polpette di alici con alici, bene, uva passa e pinoli, buonissime alla cuopperia al convento, proprio della piazza di Cetara di fronte al mare, uno spettacolo. Bene, bene, grazie, un saluto al convento, agli amici del convento. Allora io devo chiudere perché veramente io non ho mai visto tanti sms, tante telefonate, che le polpette veramente sono una cosa straordinaria. Ora a tutti è venuto voglia di polpette, a me è venuta voglia di polpette. Ho la fortuna che Antonio Consonni, che è qui con me del Cenacolo dei Pittori di Villa Raverio, me ne ha portato un vassoio. Ora le riscalderemo perché si sono freddate, caro Antonio, e le rimangeremo. Bene, allora io vi saluto, vi do appuntamento domani al Riposo del Guerriero alle 11.15, ogni giorno con la pillola alle 11.05 e alle 23.05. Un caro saluto con polpette a gogo da Davide Paolini.